Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Volevamo semplicemente avvisare che al minimo tentativo di entrare con la forza o se vediamo della violenza in atto da parte della polizia, non ci facciamo nessun problema a buttare tutti i cartellini dalla finestra rovinando anni. In questo abbiamo deciso oggi di occupare per la prima volta un laboratorio di sezione, in particolare abbiamo occupato gli scapolari, un piano intero a pieno di animali destinati a essere torturati. Questa richiesta con questa azione di oggi è chiara e forte, gli animali devono uscire con noi, non devono uscire morti come escono tutti i giorni da questo laboratorio, devono uscire vivi con le mani di questi cinque attivisti, con le nostre mani ed essere salvati. Siamo pronti a far partire, nonostante la oggi pioggia. Fortunatamente, quando si vuole descrivere una realtà, molto spesso c'è già qualcuno che ha messo le prove di questo accadimento su YouTube, quindi c'è un supporto concreto con delle immagini a ciò che si vorrebbe soltanto descrivere. Questo è un video messo su YouTube dagli stessi attivisti del gruppo Ferma Green Hill, che sono il giorno sabato 20 aprile entrati abusivamente nel Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi di Milano. Questa è una sede in cui opera la sezione milanese dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Hanno fatto una dimostrazione, quel giorno c'era un corteo a Milano animalista, era la giornata nazionale contro la vivisezione. Sono entrati appunto in questo laboratorio dove stanno gli stabulari, in cui erano gli animali, le cavie su cui si stanno facendo le sperimentazioni. L'avete sentito dal video, sono incatenati, hanno fatto come si fa una dimostrazione, alla fine hanno negoziato la liberazione di un centinaio di topi e di un coniglio che hanno portato fuori, e così è finita, diciamo, la loro manifestazione. Se lo vediamo nel fronte invece delle persone che in quel laboratorio stanno svolgendo la loro attività scientifica, è stato un danno gravissimo, perché queste ricerche riguardavano appunto le malattie del sistema nervoso, che erano anni che stanno lavorando appunto su questi dati, sono state vanificate dal fatto che sono stati tolti tutti i cartellini e a tutte le gabbiette dove stanno questi animali, quindi non è stato possibile più identificarli. Io mi riferisco a quello che ho letto sul comunicato dei ricercatori del CNR. Queste ricerche riguardavano una gran parte malattie del sistema nervoso, per le quali c'è un grande bisogno di cure, come appunto la malattia di Parkinson, l'Alzheimer, la sclerosi multipla, la sclerosi laterale amiotrofica, la sindrome di Prader-Willi, l'autismo, la dipendenza a nicotina e via dicendo, che sono tutte malattie su cui stanno lavorando, seguendo quelli che sono i parametri della ricerca stabiliti appunto da tutti gli stati e la comunità europea, e dicono, ahimè, sono andate in fumo. Bice Chini, buongiorno. Buongiorno. Bice Chini è una ricercatrice dell'Istituto Neuroscienze, il CNR di Milano, era presente durante questo blitz. Può descriverci in maniera più esatta cosa è accaduto, soprattutto dal vostro punto di vista, visto che avete fatto un comunicato, quali sono stati i risultati concreti di questa azione? Allora, appunto, quello che è accaduto è esattamente quello che è stato riportato anche da lei prima, c'è stata questa intrusione abusiva di questo gruppo di persone nel dipartimento, in particolare nel stabulario dove teniamo gli animali. E dopo una giornata di trattative, appunto, queste persone sono andate via portandosi via questo gruppetto, diciamo così, di topolini e un coniglio. Ma sicuramente il danno più grave è che i nostri animali sono identificati sulle gabbie da dei cartellini su cui è scritto appunto chi sono e che protocollo sperimentale sono, e naturalmente togliendo tutti questi cartellini per noi è più difficile identificarli. Speriamo di riuscire a recuperare qualcuno, io devo dire che qualcuno magari riusciamo a rigere o tipizzarlo, però questo richiede chiaramente un grande sforzo economico e di tempo. Ecco, gli animali liberati che speranza hanno di avere una vita normale, topi e conigli? Allora, purtroppo alcuni che hanno liberato sono dei topi nude, si chiamano, quindi con dei deficit del sistema immunitario, quelli hanno poche speranze di sopravvivere. Altri sicuramente, diciamo, sono abituati a stare in un ambiente assolutamente controllato per quanto riguarda temperatura, luce, cibo, acqua, quindi sicuramente nell'ambiente nessuna, direi, forse diciamo in una facility simile. Ecco, che tipo di ricerca stavate effettuando su questi animali e quali sono i parametri a cui vi attenete nel trattamento di questi animali che sono indispensabili per quel tipo di sperimentazione che state facendo? Sì, noi in particolare, come si diceva prima, lavoriamo quasi tutti sulle malattie del sistema nervoso centrale e anche periferico. Il sistema nervoso è sicuramente, diciamo, il cervello è la cosa più complessa e abbiamo bisogno ancora di imparare parecchio, quindi diciamo quasi tutti questi animali erano dei modelli animali di alcune patologie che al momento, diciamo, non sappiamo ancora come combattere, quindi questi animali riproducono in parte alcuni dei sintomi che si trovano nei pazienti e quindi ci consentono di studiare quelli che sono i meccanismi alla base di queste malattie e capire chiaramente i meccanismi fondamentali poi per pensare e sviluppare delle terapie efficaci, quindi diciamo questo è un po' quello che noi facciamo. Sono animali che, diciamo, alcuni sono risultato veramente di anni di sviluppo, no? Sono animali abbastanza insostituibili in alcuni casi. Ecco, dal suo punto di vista personale, dottoressa Bicecchini, ho letto molto su questo episodio, ho letto quello che è accaduto in rete, le prese di posizione, che sono naturalmente molto antitetiche, perché si scontrano poi dei principi ideologici che non hanno possibilità di conciliazione. Però dal suo punto di vista si sente una maltrattatrice di animali, si sente in coscienza che infierisce delle sofferenze inutili a degli animali, o da scienziata dice è un passo importante, indispensabile, e quindi lo faccio perché in coscienza devo farlo? Perché ho letto di alcuni suoi colleghi che dicono ma è addirittura il colmo, ci sentiamo additare come assassini, criminali, sadici, quando in realtà la nostra funzione è quella di aiutare l'umanità a vivere meglio se possibile. La prima cosa che vorrei veramente mettere in chiaro è che noi non arrechiamo nessuna sofferenza inutile a questi animali nella maniera più assoluta. È come pensare che uno adesso vada in chirurgia a farsi amputare una gamba e gliela tagliano senza anestesia. È la stessa progressi che sono stati fatti nella chirurgia o nel trattamento degli uomini si applicano esattamente anche agli animali, quindi i nostri animali qualsiasi, diciamo, intervento chirurgico, operazione eventualmente facciano, sono sempre fatte in anestesia e sempre, diciamo, veramente nel rispetto assoluto di quelle che sono le direttive, i principi e tutti i nostri tentativi veramente per evitare, ma nella maniera, diciamo, veramente proprio è talmente lontano da quello che facciamo che non mi sembra una posizione corretta. Allora fermiamoci, è veramente un'accusa ingiusta. Fermiamoci un attimo, Bicecchini, abbiamo al telefono Lorenzo Loprete, buongiorno. Buongiorno. Lorenzo Loprete è un attivista del coordinamento Fermare Green Hill, è uno degli autori di questo blitz del laboratorio. Il vostro punto di vista, ha sentito la dottoressa che si è espressa, ha raccontato quello che sono i principi e la metodologia del suo lavoro, lei è di quelli che ho visto in quel filmato che ha fatto il blitz e poi ha preso i topolini, poi l'ha portati, l'ha liberati. Che ne avete fatto dei topi? Tanto la allora, mia curiosità. I topi sono stati, la maggior parte sono stati adottati da persone che hanno avuto istruzioni su come comportarsi, altri invece sono ancora ospiti di una struttura che si occupa del recupero di animali da laboratorio, perché appunto ci sono alcune associazioni che hanno questi progetti in cui alcuni animali a fine sperimentazione non vengono uccisi, vengono donati a queste associazioni che tengono gli strumenti. Ma mi scusi, ma allora i derattizzatori sono i vostri peggiori nemici? Ma guardi, la nostra visione della società è sicuramente molto diversa dalla visione condivisa da chi vede gli animali come un oggetto o comunque come qualcuno di cui liberarsi o animali o come degli oggetti, insomma noi non vediamo gli animali come degli oggetti, noi nel corso della nostra vita è successo qualcosa, per ognuno è stata un'esperienza diversa e ci siamo resi conto che gli animali sono degli individui, che non sono a noi inferiori ma sono i nostri compagni nel viaggio su questa terra e quindi in quanto tali pensiamo di dover rispettare la loro libertà e la loro rivendicazione di autodeterminazione, perché veramente lei magari vedendo quelle immagini vede semplicemente dei curiosi animaletti rinchiusi in una scatola di plexiglass, in realtà sono animali disperati. Mi viene sorrido quando chi sperimenta dice che loro non infliggono nessuna tortura non necessaria, o comunque nessuna sofferenza non necessaria. Posso anche essere d'accordo, non vedo tutti i ricercatori come dei sadici assassini, vedo semplicemente tutti i ricercatori come le persone che non si rendono conto che non stanno maneggiando un oggetto o uno strumento, ma stanno... Allora mi scusi, Lopete, mi sembra di capire che non esiste possibilità di conciliazione. La sua è una presa di posizione profonda, radicale, filosofica, cosmica, di fronte al fatto che lei considera ogni animale un essere senziente, con la sua individualità, con il suo diritto comunque di autodeterminazione come un essere umano, si ferma il discorso, non potrei dirle altro. Io le potrei dire, ma in quel laboratorio il prezzo probabilmente del disagio o della vita di quei topolini è la salvezza di un'infinità di vite umane. Una scala gerarchica per cui... Anche su questo sinceramente credo che ci sarebbe un po' da discutere. Infatti il senso della nostra azione non è stata quella di fare un danno fino a se stesso, di creare scompiglio in questo posto e basta. Poi indubbiamente un danno l'avete fatto. Certo, ma il fine della nostra azione, che abbiamo chiamato abbattere il muro di silenzio, è che noi vogliamo che quello che accade in questi posti, in questi laboratori, negli stabulari, in tutti i posti dove gli animali vengono detenuti, venga esposto alla luce del sole. Quindi la cosa che c'è, a parte che l'abbiamo fatto mostrando la nostra faccia e rivendicandolo pubblicamente, perché la nostra è una... Ve ne do atto, tanto che ho visto il vostro filmato su YouTube, quindi vi siete fatto anche carico, diciamo, di quello che sarà lo strascico penale che avrete di questa cosa. Infatti non vediamo l'ora di poter affrontare questo processo in questa società, perché vogliamo... Noi ci sentiamo gli antischiavisti nell'Alabama del... Sì, però guardi, posso dire una cosa, Loprete? Ho totale rispetto per questa vostra posizione, nel senso, non la condivido. Io, di fronte al fatto che mio figlio autistico possa avere un vantaggio, me ne mangerei una quintalata di topi se lui servisse. Però questo è il mio punto di vista, che si contrappone al suo, chiaramente. Se la sua è una posizione così radicale, filosofica, lei affronta, affronta con eroismo... No, ma mica la sto prendendo in giro, mi comprenda. Lo so. Mi rendo conto che non c'è un punto di conciliazione, però. No, ma guardi, non pensi che comunque noi non siamo circondati da persone sofferenti? Ad esempio, una delle persone entrate nel Blitz ha un figlio che ha avuto un ictus in fase neonatale. Ci sono anche testimoni di Geova che fanno morire i figli per non fargli le trasfusioni. Ognuno ha le sue posizioni. Mi piacerebbe, infatti, questa questione dell'autismo è molto interessante, secondo me, perché so che lei ne è toccato personalmente. Quando i ricercatori dicono lì facevamo ricerche sull'autismo che avrebbero potuto aiutare milioni di persone, sarebbe più interessante spiegare che cosa facessero. No, noi siamo anche entrati in possesso dei protocolli, abbiamo avuto modo di visionarli e di vedere quali fossero in particolare gli esperimenti. In pratica, nel cervello degli autisti c'è stato associato alla formazione... le taglio, sa perché la taglio? Perché non ne sono discorsi che non posso fare. Non mi improvviso, scienziato. Il modello animale non ha assolutamente niente a che vedere con il modello umano. È impensabile che un topo geneticamente modificato per non sviluppare una proteina del cervello possa essere paragonato a una persona autistica. Questo dice, io non lo so, non so darle ragione e torto. Si fermi un attimo, tanto la tengo in ascolto. Stefano Morigi, buongiorno. Perché comincio con Stefano Morigi? Perché è un filosofo della scienza, quindi è un punto di conciliazione probabile fra delle visioni della vita che sembrano ispirate da principi metafisici, perché attribuire all'animale una sua autodeterminazione così forte da metterlo sullo stesso piano di un essere umano è una presa di posizione importante, forte, che ha sicuramente dei precedenti. Il entrare in merito a protocolli scientifici senza essere scienziato, altrimenti, è un'altra posizione molto contemporaneamente frequentata. Stefano Morigi. Innanzitutto non spendiamo paroloni filosoficamente impegnati per persone che si definiscono antischiavisti e quindi nell'Alabama di un tempo, e quindi evidentemente pensano che gli scienziati corrispondono agli schiavisti dell'Alabama di quel tempo. È un movimento totalmente infondato e irrazionale che deve avere il coraggio di ammettere che, a fronte di un'evidenza scientifica per cui non ci sono in alcuni casi alternative che passare per la sperimentazione animali nei termini previsti dai comitati etici, dai ministeri della salute e quant'altro, preferiscono salvare, tra virgolette, perché poi abbiamo sentito la ricercatrice prima che cosa ci ha detto attorno al destino di quegli animali, ma diciamo pure salvare il destino di alcuni animaletti per fermare o danneggiare o mandare in fumo la ricerca su malattie più o meno conosciute e anche malattie rare che dura da anni. Al di là del rispetto per la figura dello scienziato, che non è uno schiavista, non è Frankenstein, sarebbe ora il tempo che cambiasse la percezione pubblica della scienza degli scienziati, ma perché possa cambiare questa sperimentazione? Quei signori farebbero bene a venire nei laboratori, ma prima di far casino dovrebbero venire davvero a capire che cosa succede e soprattutto svecchiare la loro immagine della scienza, dello scienziato, che non va oltre forse un'idea del 500, forse del 600. Però Stefano, scusa Stefano, quello che ho capito da il signore che ha parlato è che è una visione talmente radicata in un principio assoluto, cioè il rispetto di ogni forma di vita animale, che non esiste possibilità di negoziare di fronte al fatto che tu crei comunque un danno, una sofferenza, o metti in una gabbia un topo, tu già sei passibile di censura da parte loro. L'umanità dovrebbe svolgersi secondo ritmi naturali, è un termine che è molto abusato, per cui chi ha la malattia si cerca attraverso condizioni che interessino soltanto la stirpe umana per curarsela, ma non vada a toccare i topi, le cavie e via dicendo. Non è che immagino che quando, non glielo auguro evidentemente, ma saranno colpiti da qualche malattia, loro e i loro parenti non faranno uso di farmaci. Già, ma scritto uno, Nicoletti, questa battuta infelice sui testimoni di Geova toglie dei punti alla sua intelligenza. No, perché toglie dei punti alla mia intelligenza? È sacrosanto, scritto, vero, che i testimoni di Geova non fanno trasfusioni anche di fronte a una gravissima malattia di un loro congiunto. E perché dovrei avere censura e paura di dire questa cosa? C'è sempre un relativizzare il tutto. No, questa cosa la dico chiaramente. fa danno alla mia intelligenza, al paziente. Avrò un deficit di intelligenza. Bicecchini deve aggiungere qualcosa? Sì, guardi, a me mi sembra appunto un po' contraddittoria anche questa cosa che loro dicono, che quello che vogliono fare è discutere poi dei protocolli e dell'effettiva efficacia. Se è questo che vogliamo fare, noi siamo più che disponibili, i nostri laboratori sono aperti, chiunque vuole venire a vedere cosa facciamo, vuole discutere, diciamo capire, siamo disponibili, ma ci mancherebbe, questo cerchiamo anzi di farlo, andiamo nelle scuole. Io spero. Però io posso dire una cosa a Bicecchini? Io non mi metterei entrare a distruggere lo stabulario, questo, ecco. Dottoressa Chini, io le dico, sì, le dico, io potrei anche venire a discutere dei suoi protocolli, ma non capendoci nulla non mi sentirei in grado di poter ma l'accusa che ci fanno di fare queste cose segrete non sono segrete, non sono che segrete, questo che voglio dire. Lo prete, perché dite che sono segrete quando ma, la dottoressa... guardi, sono segrete semplicemente perché i protocolli non sono accessibili a nessuno per fare una ricerca. Ma lei è uno scienziato, scusi, lo prete, lei ha studiato. No, io ho fatto degli studi scientifici e poi me ne sono allontanato appunto per questioni. Sì, ma qua parliamo con ricercatori tutta la vita fanno ma, questo. Sicuramente, ma io non mi sentirei in grado di analizzare un protocollo perché non ho gli strumenti. Non dimentichiamoci che ci sono molti scienziati, molti ricercatori che sono apertamente antivivisezionisti, infatti noi... Ma qua non si parla di vivisezione, scusi, no, lo prete, la vivisezione è un'altra cosa, che sono decenni... No, però lei che non può lasciar parlare tutti quanti... Però sto parlando, e lei dice vivisezione, qua parliamo di un'altra cosa. Però. Allora, i ricercatori sicuramente hanno tutto l'interesse a mantenere comunque il loro lavoro all'interno delle loro quattro mura. Noi abbiamo organizzato un dibattito pubblico al quale speriamo che questi ricercatori si presentino e abbiano voglia di discutere con noi non solo i piani etici, la base etica del loro lavoro, della nostra visione del mondo e della società, ma anche entrare nel merito di quello che comunque abbiamo visto e abbiamo avuto modo di visionare in quelle ore in cui ci siamo impossessati dei documenti e abbiamo visto ad esempio esperimenti. Cioè, io credo che noi dovremmo prenderci la responsabilità di quello che facciamo, del mondo che abbiamo creato. Scusi, io la faccio. Mi faccia esprimere, ma sto facendo parlare. Sì, ma lei fa come Pannella. Scusi, la faccio parlare, però le faccio domande se permette. Certo. Scusi, io non voglio entrare in merito, ma lei che tipo di cognizione scientifica ha per confutare il lavoro di una persona che dedica la vita a questa ricerca? Io lo rispetto il suo principio etico assoluto, si figuri, la faccio parlare, mi sembra che non sono in tanti che vi facciano parlare con questa tranquillità, lo faccio proprio per capire, ma mi rendo conto quando lei entra però in merito dire io ho guardato i protocolli, ho visto, ma lei cosa ci capisce dei protocolli? No, ma ovviamente. Io, allora, a parte che sappiamo benissimo che nella società funziona il principio di autorità per il quale se si ha un titolo si può parlare, se non ce lo si ha non si può parlare. Grazie a Dio, chi ha studiato c'è un titolo. Io ho fermato una miserissima maturità scientifica dopo aver abbandonato... Ma scusi, si rende ridicolo lei stesso? No, per leggere i protocolli e studiarli ci siamo ovviamente affidati a degli scienziati, a delle persone che fanno ricerca, all'interno dei laboratori che non usano animali, e quindi noi abbiamo intenzione di invitare queste persone ad un confronto, ovviamente appoggiandoci a dei ricercatori, a delle persone laureate e preparate che avranno modo di mostrare tutti i loro titoli e quindi avere in questo modo l'autorità di poter parlare. Questo sicuramente non ho certo intenzione di farlo io dal basso del mio Io potrei farlo dal basso del mio ceplassico. Mi dispiace che non abbiate avuto modo di invitare un antivivisezionista scientifico, una persona laureata. Perché continua a parlare di vivisezione? Mi scusi, lo prego. Perché vivisezione e sperimentazione animale sono su dizionario sono ormai ovviamente. Ah, si fermi un attimo, solo un secondo, non la caccio, Carlo Alberto Redi, buongiorno. Buongiorno. Carlo Alberto Redi è un professore ordinario di zoologia presso l'Università di Pavia, professore a contratto istituto Università Studi Superiori, accademico dell'INCEI, socio onorario Società Genetica del CILA, autore di articoli scientifici e libri, insomma un'autorità. Mi spiega la differenza tra vivisezione e sperimentazione di cui stiamo parlando? Dunque, questo è centrale, perché sennò la confusione è grande, il dibattito diventa falsato, come in questo caso con questo signore Loprete. Vivisezione è un crimine, è un termine altamente emotivo che fa riferimento a pratiche ottocentesche, a dir tanto, che oggi non ha più senso di essere messo in campo. Se non è chiaro questo, è inutile andare avanti a discutere, e chiamarsi antivivisezione chiamando dei personaggi famosi a fare da testimonial è mistificatorio e ingannevole. È contro quello che questi signori dicono di voler parlare e aprire un dibattito. Ma ci dica la differenza, per capire tecnicamente, così capiamo anche all'epoca, partendo da Aristotele, Galeno e arrivando poi più su, veniva praticata l'apertura dell'animale senza che questo fosse anestetizzato. Questo è un crimine, nel DDL 116-92, la dichiarazione di Basilea, si va in galera. Quindi perché chiamarsi antivivisezione se ciò non viene fatto? Le immagini che fanno vedere di animali massacrati o messi lì in condizioni disperate sono immagini di cui non si conosce la provenienza, non si sa chi le ha fatte, sono immagini di tanti anni fa. Questo è tutto un falso. Questo, cioè, nessuno di voi infila i chiodi nel cervello delle scimmiette. Ma provi a pensare, se tu lo fai su un animale di quel tipo, introduci delle variabili nella sperimentazione scientifica che ne implicano la non riproducibilità. E allora la prima cosa che un ricercatore vuol fare è non avere il discorso di non essere riproducibile. Allora, professore, fermi un secondo, devo dare la linea alle informazioni della borsa, prenda fiato che poi continuiamo, farò parlare tutti, tranquilli, non voglio impedire alle persone di esprimere il loro parere, però esiste una classificazione a seconda di come uno è impegnato la propria vita. Una cosa è leggere dei protocolli e guardare l'enciclopedia, una cosa è aver dedicato una vita alla ricerca. Melog, la realtà condivisa. E tutti gli animali, libertà! E tutti gli animali, libertà! Vogliamo tutti gli animali, vogliamo andarcene con tutti gli animali, tutti i topi, tutti i conigli. Sto toccando un argomento, mi rendo conto, molto delicato e molto difficile da trattare. Da una parte una visione della vita totalizzante, molto fondata su probabilmente un credo sinceramente condiviso da varie persone che affrontano anche il rischio di denunce penali facendo manifestazioni plateali, vigorose, entrando, facendo casino negli stabulari, andando a fare danni dove si sta facendo ricerca, perché credono che appunto il genere animale debba avere una sua dignità pari a quello che ha appunto il genere umano. E questo è molto condiviso da parte del pubblico, che mi sta dando dell'infame, dell'affossatore di verità, dice, perché hai messo uno contro tre, potrei prenderne altri tre, mi direbbero le stesse cose. Non è esattamente così la questione. E dici, ci sono delle cose che non vogliamo dire, inizia a dire, siamo entrati con delle telecamere nascoste in altri laboratori, abbiamo visto cose orribili. Può essere benissimo, però io sinceramente, io riassumo una mia posizione filosofica. Non mi pongo molto il problema, anche perché sarei ipocrita se esprimessi considerazione e pietà per il topolino salvato quando ho una cintura di cuoio o delle scarpe di cuoio. Ieri sera ho mangiato una grigliata di salsicce con amici, quindi sarei ipocrita. Dovrei annullare tutte queste cose della mia vita, dal mio esistere, per dire sì, è giusto, abbraccio questo tipo di posizione filosofica. Non può essere parziale, non si può fermare a questo. Un altro mi scrive cose molto giuste. Se hai passione per gli animali, dovresti impedire che alcuni fighetti cittadini tengano i grossi cani in casa facendoli uscire 5 minuti al giorno per fare la pipì. Quella è sofferenza verso un animale. Sono d'accordo anche su questo. Dina, ascoltatrice, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie per questa possibilità di intervenire. Io non vorrei prendere posizione, anche sebbene io ne abbia una. Ma può farlo, nessuno qua, non ho mai impedito a nessuno di prendere posizione. Ma voglio... cioè semplicemente dare un diverso punto di vista. Non è semplicemente l'ideologia di alcune o più persone che hanno un certo credo, ma sono proprio i cambiamenti culturali, cioè la nostra cultura che ha fatto cambiare il nostro modo di vedere gli animali e quindi anche gli esseri umani rispetto a loro. Cultura di chi? La sua personale? Cultura, la nostra come società, e le dico di più, paradossalmente anche la scienza, sia le discipline scientifiche che quelle umanistiche, c'è una maggiore attenzione, ma l'è stato detto, appunto a far cambiare il nostro punto di vista. Sì, però scusi, Dina. La zoologia, mi scusi, ci ha fatto riconoscere delle menti animali. Questo il filosofo della scienza avrebbe dovuto dirlo. Il diritto, noi addirittura abbiamo una legislazione che difende gli animali come soggetti di diritto. Un grande segno di civiltà. Un esempio emblematico è quello che è accaduto qualche giorno fa, dove un orso è stato investito nel Parco Nazionale d'Abruzzo ed è stato trattato dai media come effettivamente una vittima della strada. Cioè, I soccorritori hanno soccorso l'autista sotto shock, che parlava come se avesse messo sotto una persona. Ma mi sembra giusto. Ogni civiltà, ogni cultura... Ma lei non è mai capitato di investire un animale? Gli esseri umani... Sì, ma faccia parlare anche lei, mannaggia al diavolo, possibile che... impari a dialogare, scusa, sto facendo delle domande e continua a parlare. Dice esattamente la stessa cosa, non la contraddico. Abbiamo fatto un passo avanti nella civilizzazione. Una volta un contadino, io vengo dalla campagna, i contadini tranquillamente prendevano a sassate i cani, quando erano arrabbiati li bastonavano, li tenevano senza mangiare, trattavano gli animali da tiro in maniera bestiale. Ho visto bastonare mucche, vacche, cavalli, asini nella mia fanciullezza. Oggi uno sarebbe arrestato per una cosa del genere. Quindi sono d'accordo, c'è un passo avanti nella civilizzazione, ma da questo a impedire che si usino delle cavie per fare sperimentazione, secondo me non esiste ancora in nessuna legislazione. Questo è un punto di vista, io non lo condivido, altri lo possono condividere. Ma lei cosa voleva dire in sintesi? Volevo dire che proprio perché bisogna evidentemente tenere conto del fatto che oggi tantissime persone... Cosa porta ai piedi lei, signora, in questo momento? Scusi, Diana, cosa hai ai piedi in questo momento? No, cosa hai in piedi lei in questo momento? Cosa hai in piedi, Diana? Dina, cosa hai in piedi in questo momento? Scusi. In piedi in che senso? Lei sta in piedi o seduta? Una domanda. E cosa hai in piedi? Cosa calza? Ciabatte di plastica. Sì, certo, indovina. Quando esce mette ciabatte di plastica. No, guardi, io neanche guido, per rispondere alla sua domanda di prima, se ha mai investito un animale. Non ho neanche la patente. Sì, ma mette scarpe lei. Però, mi scusi, lei mi sta portando su degli argomenti non importanti. Io ripeto, io non voglio prendere posizione pro o contro. Sì. Volevo solo ribadire che non è solo l'ideologia di quelle persone, degli estremisti che hanno fatto queste azioni, che poi io tra l'altro non condivido, perché ovviamente hanno messo in libertà... Si va dal punto, chissà, al punto. È cambiato un punto di vista, fa parte dei cambiamenti culturali della nostra società, e l'abbiamo registrato. Quindi se ne tenga conto anche da parte, per esempio, dei centri di ricerca, che sono inaccessibili. Ma dove sta scritto sono inaccessibili? Chi lo dice? Chi lo dice sono accessibili? Dove l'ha letto lei? È solo un suggerimento. Ma dove l'ha letto che sono inaccessibili? Vabbè, niente, Dina, non se ne può. Mi piace quando le persone attaccano, dicono sempre la stessa cosa, come fosse un mantra. Ha detto, ha espresso, ha ripetuto 10 volte la stessa cosa. Sono inaccessibili. Una ricercatrice mi ha detto: chiunque voglia può andare e può analizzare quello che stanno facendo. Alessandro. Sì, buongiorno, grazie per avermi fatto di venire. Niente, io volevo dire una cosa: io sono 28 anni e 2 anni fa ho perso mio padre per una gravissima malattia, che è quella poi del cancro. Niente, e ho anche mio nonno che comunque soffre di sclerosi multipla, tanto per la fortuna. Io mi chiedo e volevo chiedere al signor che ha fatto irruzione a Milano, visto che comunque non abito tantissimo lontano nella zona del Bergamasco, ma lui per caso ha un parente che soffre di qualche malattia, che comunque non si trova ancora una cura, e ci sono persone che dedicano una vita, come ha detto lei, alla ricerca di questa cosa. Le ha mai guardate in faccia soffrire e vedere la sofferenza ai loro occhi? Io, non perché io ho anche dei cani, vivo in campagna, quindi ho dei cani e abbiamo sempre vissuto in mezzo agli animali. Non dico che gli animali non abbiano meno diritti di noi, però sostengo che forse non hanno non sono umani. Io non mi paragono come un animale. È molto io chiaro, è molto chiaro. Lorenzo Loprete, vediamo se mi può. Di cancro praticamente fra le mie braccia, e mia mamma ha una malattia neurodegenerativa, quindi la sofferenza la conosciamo benissimo anche noi, ma noi abbiamo una razionalità e vogliamo entrare nel merito di quello che queste persone stanno facendo. Ci sono direttori di centri di ricerca che per anni hanno studiato il cancro nei topi e dicono: per 20 anni, 30 anni non abbiamo fatto niente perché non siamo dei ratti di 70 kg. E infatti vorrei che le persone interessate a questo argomento andassero da sole a informarsi su quali sono i centri di ricerca e gli scienziati che hanno deciso, per motivi scientifici, razionali e motivati, di non utilizzare più gli animali come modello di ricerca, perché non sono minimamente predittivi delle condizioni umane. Poi nel momento in cui uno per favore, un centro, per così sentiamo, capiamo. Ad esempio c'è l'ECVAM, che è l'European Center of Validation of Alternative Methods, che ha sede in Italia tra l'altro, e che si occupa proprio di validare tutti quei metodi che non utilizzano gli animali, proprio perché i metodi animali, i modelli animali non sono mai stati validati scientificamente. Esiste una serie di letteratura scientifica che non sto qui a snocciolare, anche perché non ho i dati in questo momento sotto mano, che chiunque può vedere, come tantissime ricerche indipendenti portate avanti da persone piene di titoli che lei potrebbe stare qua a snocciolare per ore ed ore, che hanno chiaramente scientificamente definito come gli animali non siano un modello predittivo in alcun modo per l'essere umano. Posso chiedere un attimo? Questo non voglio entrare. In ogni caso, chi dice che gli animali che gli animali non siano esseri umani, che non siano appartenenti alla nostra specie, è un dato di fatto. Però è chi pensa che in virtù di questo fatto, che loro non abbiano diritto, non possono essere liberi, e abbiamo quindi, in virtù della nostra superiorità... Beh, questo l'abbiamo già capito, non è che la voglio... ...ucciderli... Ma mi fermerei all'aspetto della sperimentazione, lo so, la capisco, il suo punto di vista. Lei vorrebbe vedere tutti gli animali liberi, nessuno che se li mangia o che li usa per fare borsette o cinture, questo mi sembra molto chiaro. Professor Redi, vorrei proprio puntualizzare da un punto di vista scientifico. Sì, perché abbiamo sentito una serie di dichiarazioni ideologiche veramente che fanno tenerezza, non ci sono altre parole. Però io le rispetto, ognuno può pensare quello che vuole. Perdoni, mi lasci dire. Sì, sì. La discussione è importante, è stata messa in campo seriamente e non come buffonata nel 1959 da Russell e Bartsch, con il principio delle 3 R. Gli animali vanno rimpiazzati, ridotti e messi in condizioni di vivere molto bene. La impresa scientifica si è fatta carico e ha sottoscritto il principio di Russell e Bartsch, e oggi, dal 1960 ad oggi, l'uso degli animali è diminuito di più del 50% a fronte di un numero incredibile di ricerche svolte in numero ben più alto e con tanti più ricercatori. Numero uno. Numero due. Le cellule non possono, sono i metodi alternativi seri, le cellule in vitro non possono sostituire l'animale. Questo è un dato concreto, empirico, preciso. L'animale vorremmo sostituirlo perché ci costa molto e porta via molto tempo. Un test di carcinogenesi che questo ragazzo assolutamente, lasciamo perdere, di carcinogenesi sugli animali viene a costare sui 3 miliardi e va avanti per 4-5 anni. Con le cellule lo faccio con 30 milioni in qualche settimana, ma non ho gli stessi risultati. Punto, a capo. L'animale è necessario. Pasteur con le pecore ci dice la teoria dei germi. Abbiamo tutti i dati per i trapianti d'organo e i tumori del sangue che riusciamo a trattare è grazie al fatto che l'abbiamo. L'insulina, i diabetici, nel 1922 isolata nei cani, qualunque esempio, la polio, non c'è più la polio e riusciamo a trattarla perché abbiamo usato gli animali. L'unico paese al mondo che vietava l'uso degli animali, come chiede questo ragazzo impreparato, è stata la Germania nazista. Si faccia una domanda, l'unico paese al mondo nella storia che ha proibito l'uso degli animali è stato la Germania nazista. Grazie, usava gli esseri umani, funzionava meglio, usavano i detenuti nei lager, certo che usava meglio. Sono dibattiti inutili con persone impreparate che dice che guarda il protocollo e poi chiede a uno scienziato. Qual è il collega che dice che quei protocolli non vanno bene e non sono aperti? Quell'istituto che ha citato, quell'istituto che ha citato. Se torni a casa, si prepari e non spari solo sentenze ideologiche. No, scusa una cosa, professore. Professore, esiste, solo questa domanda velocemente, poi devo lasciarla in un minuto. Esiste nella comunità scientifica, diciamo, un settore di scienziati che sostengono quello che ha detto questo signore, che ha detto il signor Lopre? Ci sono molti scienziati che usano sistemi in vitro, perché siamo riusciti dal 60 ad oggi alcune parti che facevamo sugli animali a sostituirle, perché ce ne siamo fatti carico, il 50%, l'ho detto prima, esistono ricerche che fai tranquillamente oggi sulle cellule in vitro, ma perché? Ma perché abbiamo usato gli animali prima, per Diana. Melog, la realtà condivisa. (800) 24 0024, stiamo sostenendo questa discussione, che però mi sembra importante sviscerarla nei suoi singoli elementi. Sul rispetto del mondo animale sta cambiando la coscienza, come ci dice un'ascoltatrice, come ci dicono gli animalisti che hanno fatto il blitz all'istituto a Milano, ma allo stesso tempo, ci dice lo scienziato e il ricercatore, è cambiata anche perché chi fa sperimentazione sugli animali sta usando protocolli che tengono molto più conto della esistenza dell'animale. Se ne fa il 50% in meno, ma perché se ne è fatta in passato. Abbiamo Luca, l'ascoltatore, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda al suo ospite, no? Cioè, benvenuto spontanea. Invece di fare i blitz nei laboratori, mi chiedevo, ma perché non fanno i blitz nelle multinazionali che vendono i veleni per i topi? Cioè, nel senso, io frequento molte ferramente e vedo che vendono dei veleni per i topi. Logicamente le società lo fanno per scopo di lucro, i laboratori molto probabilmente lo faranno per livello scientifico. Dopo io non entro in merito perché non sono competente, però mi chiedo, se uno deve fare un blitz, eventualmente vado nelle multinazionali che vendono questo veleno in tutto il mondo, che penso che facciano molti più morti che non i laboratori. Beh, perché io immagino, adesso lo facciamo parlare Lorenzo Prete, che qui si dibatte su un principio fondamentale, è l'uomo che usa animali, il derattizzatore in effetti probabilmente è fuori ancora da questa ottica di una non considerazione del genere animale, non me lo saprei manco spiegare molto bene. Lorenzo Loprete. Ma per favore, noi stiamo cercando di... È una battaglia ideologica sui principi la vostra. No, ma non è una battaglia ideologica, noi vogliamo scatenare un dibattito in seno alla società, noi vogliamo che si discuta di questo aspetto della sperimentazione animale pubblicamente e che tutte le persone abbiano una presa di coscienza. Noi portiamo avanti una battaglia politica. Poi, sì, però onestamente chi avvelena i topi ne ammazza, certo, molti di più. Ovviamente noi abbiamo un approccio assolutamente paritario verso tutti gli animali e tutto, qualunque abuso, qualunque uso degli animali, qualunque azione portata avanti per danneggiarli, ucciderli, la combattiamo veementemente. Cioè, poi per Roma girano dei furgoni con un topo sopra disegnato del derattizzatore. Ma il problema è che noi stiamo parlando di vivisezione e di sperimentazione animale in questo momento, se poi la parola vi sembra più appropriata, e vogliamo parlare di questa cosa e portare avanti un dibattito su questo aspetto della questione. Questo non significa che noi tralasciamo gli altri, singolarmente come attivisti ci occupiamo di tantissimi aspetti dello sfruttamento animale, non ultimo anche quello della derattizzazione, ma in ogni caso come coordinamento Fermare Green Hill portiamo avanti una battaglia sulla vivisezione e sulla sperimentazione animale, quindi è questo di cui ci vogliamo occupare. Posso fare una domanda, Loprete? Una mia curiosità, cosa ne pensate voi di usare gli animali come oggetti di compagnia, questa sorta di ormai idolatria che c'è dell'animale da compagnia, gli animali con i cappottini? Ci sono alcune degenerazioni veramente ridicole in cui si vuole considerare l'animale come una specie di un bambolotto, un bambino si veste, esatto, si culla. Su questo avete capito che è un'altra forma però non certo rispetto alla dignità dell'animale. Gli animali da compagnia, gli stessi animali da compagnia, definire un animale da qualcosa per noi è un'aberrazione. Gli animali sono individui di sé in sé, per sé. Poi, ad esempio, io ho dei cani di cui mi prendo cura perché sono animali che sono stati maltrattati nella loro vita, che sono malati, paraplegici e non possono occuparsi di loro stessi, diciamo. Poi viviamo in una società fatta a misura d'uomo. Ma infatti una riflessione che mi piacerebbe poter fare in questa trasmissione, che sicuramente eviscera le cose... Ma gli insetti valgono come gli animali? Ovviamente anche gli insetti sono degli individui... Cioè un bambino col pidocchio dovrebbe tenerseli? No, vabbè, nel momento in cui un animale porta un attacco e mi sta facendo del male e mi causa una situazione di dolore insopportabile o comunque... Ma fastidio... anche le pantegane che girano per Roma non è che poi danno tanto gusto vedere. Ma guardi, le pantegane che girano per Roma sono lì semplicemente perché è pieno di rifiuti, di spazzatura in giro. Probabilmente se ci fossero meno rifiuti e meno schifezze in giro ci sarebbero anche meno pantegane. Fermiamoci un secondo, solo un secondo. Fabio, ascoltatore. Sì, buongiorno. Guardi, io ho appena finito una ricerca per un importante istituto e ho potuto visitare sia i laboratori dove grandi aziende farmaceutiche tengono proprio le cavie per fare... Che mestiere fa lei, Fabio? Guardi, sono un ricercatore, non posso dire il numero di studio perché la ricerca è appena stata... Ricercatore in che ambito? Questa è una ricerca che abbiamo effettuato per conto dell'Istat. Per l'Istat? Quindi lei è uno statistico, non è uno scienziato. Sì, questa è più che altro una ricerca sulla qualità delle professioni, voglio dire. E quindi abbiamo fatto questa ricerca intervistando sia i direttori, addirittura il direttore del benessere animale di questi laboratori, che per legge, ormai per una direttiva europea, questi laboratori devono avere una persona che si occupa del loro benessere, e quindi queste cavie... soprattutto per quanto riguarda alcuni tipi di animali, hanno bisogno di giocare, quindi hanno dei piccoli giochini all'interno dei laboratori perché possono divertirsi prima di queste sperimentazioni. Ma quello che volevo dire è che però contemporaneamente... Cioè, messa così il parco giochi prima di passare sotto... Ci sono proprio questa persona che si occupa proprio di nel frattempo di guardare la loro condizione di vita, perché devono essere in perfetta forma queste case. L'animatore dei topolini, questo è il suo punto di vista. Carlo Alberto Redi, vediamo di cominciare a tirare, abbiamo sfiorato anche la facezza in queste cose. Sì. Sul fatto che esistano dei protocolli riconosciuti, riconoscibili, che la comunità scientifica ha accettato, non soltanto nel nostro paese, come potrebbero vedere azioni del genere? Cioè, che in Italia esista questo dibattito, gli altri lo sanno, esiste anche in altri paesi? Dunque, il dibattito deve essere impostato seriamente e quindi il modus ponens deve avere gli interlocutori che usano lo stesso linguaggio. Quindi questo signor Loprete non può parlare di vivisezione perché è sbagliato, è infondato. Se continua a parlare di vivisezione, poi c'è la gente che telefona perché non ha capito. Se vuole, gli sta a cuore davvero un dibattito serio. Ad esempio in Svizzera l'hanno fatto e l'hanno risolto col solito discorso del fare il referendum. I colleghi sono andati nei grandi magazzini, alle stazioni e hanno volantinato, hanno spiegato, e questo è un aspetto che i ricercatori italiani devono incominciare a praticare. Cioè dobbiamo, come ha ricordato la collega, iniziare a parlare, perché i laboratori sono aperti, non abbiamo un grande esercizio come in Svizzera o come in altri paesi, in Inghilterra, di comunicare, lo dobbiamo fare, perché l'esigenza chiara di impiegare oggi l'animale è un dato riconosciuto a livello internazionale da tutte le accademie. I sistemi alternativi in vitro verranno sviluppati. Dal 60 ad oggi, in 50 anni, siamo riusciti a diminuire della metà. Questo deve essere riconosciuto, i termini del discorso devono essere chiari, non può impiegare il termine vivisezione e ingaggiarci in un dibattito in cui lui risulta un interlocutore mentre non lo è. Mandi a parlare i colleghi che lui dice essere della sua visione, perché se no non ha senso che parliamo con chi dichiara. Non è d'accordo, professor Redi. Però dice che non vuole. Professor Redi, non è d'accordo che forse sarebbe il caso, visto che questo movimento d'opinione sta crescendo, che si faccia un'operazione di informazione corretta, chiara, trasversale, capillare e anche comprensibile su quello che avviene nei laboratori, perché forse taglierebbe la testa al toro se realmente si spiegasse. Ma guardi che noi ad esempio a Pavia facciamo... Ho detto una parolaccia, tagliare la testa al toro non era forse il termine più esatto. No, va bene, va bene anche quello. Noi facciamo tutti gli anni una settimana di laboratori aperti, ma a Siena lo fanno, molti colleghi lo fanno, la collega di Milano si è detta disponibile. Questi signori bussano, chiedono, guardano i protocolli, si chiede di andare in radio, in televisione a parlarne. Questo è un modo. Guarda, io mi posso prendere, per quello che è la mia responsabilità, l'onere di dire che questa radio, per quanto può, potrà contribuire. Se partirà una campagna di informazione seria, corretta, su quello che avviene nella sperimentazione animale in Italia, io darò lo spazio che ho a mia disposizione, di cui posso rispondere spesso e volentieri. A domani.